Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'autore interprete Moni Ovadia per presentare il suo spettacolo Dio ride a Roma, Teatro Vascello, dal 4 al 9 febbraio 2020. Moni, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Un saluto fortissimo ai nostri ascoltatori. Bene, eccomi qui. Allora sì, questo spettacolo ha già debuttato a Milano della stagione scorsa. Sì. Viene a Roma e questa serata al Teatro Vascello è per me importantissima, perché al Teatro Vascello nel marzo del 1993 debuttò Ilem Goylem, fu proprio la prima del mio spettacolo Ilem Goylem. Quindi torno dopo più di una generazione a raccontare una nuova storia, ed è lo stesso narratore che raccontava del mondo scemo e che cercava di far capire che la condizione di splendore dell'integrità umana è l'esilio. A distanza di più di una generazione, quasi 30 anni, torna a raccontare che credeva di aver dato un piccolo contributo a illuminare la via dell'esilio e della vera libertà, ma è stato, questo nel prologo, dice, io sono stato bloccato dai muri che si sono alzati. Non ho potuto disperdermi nell'estremo esilio, come era la mia vocazione, perché questa umanità, mentre celebrava la caduta di un muro con grande pompa retorica e falsa coscienza, erigeva decine di altri muri, barriere, fili spinati, eccetera. E in particolare quello che più mi ha respinto, dico, è il muro della cosiddetta Terra Santa, che segrega il popolo palestinese, che lo vessa, lo umilia, gli sottrae le risorse, gli sottrae il presente e il futuro, un muro algido e feroce che si accanisce contro un popolo indifeso. E poi, dopo aver fatto questo prologo, comincio il mio viaggio. La struttura dello spettacolo è come quella di Ilem Goylem. C'è un piccolo atollo, che è il palcoscenichino ispirato ai cabaret di Varsavia del periodo espressionista prima della Seconda Guerra Mondiale, e appunto questo narratore vagabondo insieme ai suoi musicanti vagabondi e così, che sono itineranti per vocazione, racconta una nuova storia, questa volta affronta il discorso sull'esilio dal punto di vista della spiritualità umoristico paradossale, e mostrando che anche dal punto di vista spirituale l'unica via a trovare la redenzione, l'uguaglianza degli uomini e la vera libertà è la condizione di straniero. Io proprio che cosa racconta questo spettacolo? Che noi saremo in pace solo quando vivremo da stranieri fra gli stranieri. E allora viene coinvolto anche la modalità del divino, anche se io sono ateo, ma diciamo faccio riferimento a quel tipo di discorso. Lo spettacolo si dipana, molto divertente, si dipana fra la struttura umoristica come Ilem Goylem, musiche, canzoni, però e anche alcuni momenti di ponderosa riflessione. L'unica differenza con Ilem Goylem è che alle mie spalle c'è un muro scenografato che allude al muro della Palestina, proprio è stato scenografato in modo da ricordare quel muro, dove viene proiettata una specie di ininterrotta reverie di immagini che declinano l'esilio ebraico, insomma l'esilio di quando gli ebrei non avevano nessuna nazione né niente, ma erano in esilio, quindi avevano una condizione di straordinaria capacità di affrontare il mondo pur nelle immense difficoltà e nel dolore. Questa reverie delle immagini dell'ebraismo dell'esilio, sai, qualche immagini sciagagliane, queste cose, è declinato con l'esilio del popolo palestinese tradizione nazionale nazionalista è per me una pestilenza. E finisco, l'epilogo è, di nuovo riprendo il tema dell'oppressione del popolo palestinese e vado alla fine dicendo: se questo sarebbe la condizione in cui vuole risolversi l'ebraismo in un nazionalismo idolatrico, feroce, oppressivo e fanatico, allora io a questa cosa non ci sto nel modo più assoluto. Poi, ecco, finisco con una canzone araba, indossando una kefia. Questo è uno spettacolo molto essenzialmente, uno spettacolo molto divertente, molto scoppiettante, le musiche, le canzoni sono molto belle, ho un nuovo corpo di storielle e anche alcune riflessioni molto ponderose, eccetera, sull'identità essere umano, che secondo me finché si perde l'identità essere umano invece di risolversi in una fratellanza e accoglienza universale, ritornano i nazionalismi, allora noi siamo destinati a ripercorrere i tragici passaggi che l'umanità ha già ripercorso, mostrando che non è ancora scesa dalle piante. Moni, una doppia domanda: le storie che hai messo insieme da dove vengono e idem per le musiche? Dunque, le storie che ho messo insieme vengono dalla tradizione dell'umorismo ebraico, dello Yiddish, insomma, da quel repertorio lì, che è, diciamo, la materia di cui io mi servo per costruire i miei spettacoli. E le musiche sono musiche sia qualcosa della tradizione Yiddish Klezmer, c'è una musica rumena, ci sono alcune musiche liturgiche e paraliturgiche, che però vengono sviluppate anche ritmicamente. Ecco, questo per dire tecnicamente in cosa consiste. Dio ride a Roma, al Teatro Vascello, dal 4 al 9 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Moni Ovadia. Moni, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Grazie Federico, davvero grazie per la vostra ospitalità. Ciao. Con Martina Carpi, che ha firmato il progetto e lo porta in scena Al di là del muro, a Roma, Off Theater, dal 4 al 6 febbraio 2020. Martina, ben trovata. Buongiorno, salve. Ti presenti questo lavoro? Sì, dunque, allora, io questo lavoro che ho già fatto a Milano, al Teatro Franco Paletti, adesso sono molto contenta di farlo a Roma, al Teatro Off, che è in via Giulia, quindi vicino al ghetto. È un lavoro dedicato al tratto da Diario di Gusen di mio nonno, che si chiama Waldo Carpi, era un pittore che, di origine ebrea. Lui, quando insegnava a Brera, prima, diciamo, di tutti i fatti che sono avvenuti, era stato denunciato da un suo collega di Brera per antifascismo, venne arrestato e portato a Mauthausen e da Mauthausen a Gusen, che era questo tragico comando di Mauthausen dal quale sono tornati il 2% dei deportati. Lui era già un uomo adulto, aveva 6 figli, era un uomo tranquillo, e però gli è successa questa cosa terribile. E durante la sua prigionia ha scritto un diario, che è quello che poi, oltre al fatto di essere pittore, per cui gli facevano gli ufficiali nazisti, gli davano le foto delle fidanzate, si facevano ritrarre, gli chiedevano di dipingere dei paesaggi, e questo gli ha permesso di vivere un pochino meglio, lievemente meglio di quello che era la vita comune all'interno del campo. Il fatto di tenere un diario segretissimo, perché se gliel'avessero trovato l'avrebbero ucciso immediatamente, immediatamente in forma di lettere alla moglie, che naturalmente non le poteva consegnare, però è quello che l'ha tenuto vivo, perché sono delle lettere bellissime, piene di amore, piene di parla di musica, della famiglia, e in questo modo è riuscito a non farsi sopraffare da quello che stava vivendo. E quindi è una cosa a cui io tengo tantissimo, molto bella, legata alla mia famiglia, e sono cose che si dimenticano purtroppo molto facilmente. E anche molto forte il fatto di uno scritto che viene proprio dall'interno del lager, cioè lui scrive questo diario lì a Gusen, poi lui si è salvato, è una storia che alla fine è finita anche bene, e quando è tornato a Milano, a Brera, è stato eletto direttore dell'Accademia di Brera per acclamazione, per volontà dei suoi allievi, quindi è anche una storia che è finita bene, questo a grandi linee, ecco. E allora io ho voluto, proprio perché sentivo che questa storia, che quando io ero piccola era molto presente anche nelle persone che conoscevamo, sento che piano piano si stava affievolendo, e non è giusto. Credo che sia importante queste cose tenerle fresche, perché farle rivivere come se fossero presenti. E ho voluto fare questo montaggio, diciamo, di lettere, con anche le proiezioni delle immagini del diario di Gusen, perché lui disegnava, ci sono questi disegni meravigliosi, essendo pittore, che sono anche abbastanza, alcuni tremendi, altri no, cioè c'è la vita dentro. E ho voluto mettere le musiche di Fiorenzo Carpi, mio padre, che era il suo primogenito, e di cui lui parla nel diario. All'epoca era un ragazzino, quindi sono musiche che ovviamente ha scritto dopo, e sono eseguite da un pianista molto bravo che si chiama Marco Moiana. Quindi abbiamo fatto questa operazione, che è un'operazione molto intensa, a cui teniamo molto. Questo, ecco, è il discorso. Penso che possa essere molto interessante. Sarò al Teatro Pop il 4, il 5 e il 6 di febbraio, sempre per le celebrazioni del giorno della memoria. Mi fa molto piacere che l'abbia voluto il Teatro Pop, che è in via Giulia, e devo dire che avendolo fatto a Milano proprio ho sentito, ma sono venuti addirittura degli eredi, delle persone che avevano avuto i propri avi morti a Gusen, che sono venuti con le fotografie, per cui è stata una cosa veramente forte. E veramente forte anche l'incontro con i ragazzi delle scuole che sono venuti, poi mi hanno invitato in questa scuola e mi facevano delle domande veramente intelligenti, interessanti. Quindi è qualcosa che secondo me, se si racconta, si racconta in un modo non generico, capisci? Perché magari una cosa è raccontare la storia, dire guardate questo è successo, e una cosa è una storia personale di uno che stava lì e che in quel momento parla con se stesso a questo diario così intenso e così privo di violenza, perché non c'è una parola cattiva, è proprio cercare di capire e cercare di tenersi alto lo spirito, e quindi pensare alla musica, pensare alla famiglia. Lui poi era anche molto religioso, molto cattolico, e quindi tutto questo lo ha salvato, e io penso che sia importante comunicare questa cosa. Riguardo al web e queste cose qua, pensateci voi, perché io sono la negazione di queste cose. Io ho una mail, ecco, questo sì, ma per quanto riguarda Facebook eccetera, io onestamente non mi sono mai messa, perché non saprei gestirla, ecco. Poi alcuni mi dicono fai malissimo, altri mi dicono ma no dai, guarda che è meglio così, quindi boh, non lo so, vedremo. Proseguirà il suo viaggio poi, lo spettacolo? Guarda, io penso di sì. Noi per quest'anno lo facciamo solo a Milano e a Roma, però a Milano è andato molto molto bene, e quindi già me l'hanno chiesto anche all'Accademia di Brera, perché lui lavorava lì, e anche credo che il teatro lo voglia riprendere, e spero veramente che prosegua il suo viaggio, perché secondo me è veramente un piccolo gioiello, non dovrei dirlo io, ma insomma... Lo penso e lo dico, penso di sì, penso proprio di sì, lo spero, e in quel caso ve lo comunicheremo in un modo o nell'altro, sicuramente, ne parleremo. Al di là del muro, un artista nel Lager, a Roma, all'Off of Theater, dal 4 al 6 febbraio 2020, un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Martina Carpi. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie tante a voi e a sentirci presto. Venite. Con Marzia Ercolani, autrice e regista dello spettacolo Munne, un Munno differente, allo spazio 18B a Roma dal 4 al 9 febbraio 2020. Marzia, ben trovata. Grazie Federico, ben trovati a tutti quanti voi. Lo raccontiamo? Sì, volentieri. Allora, Munne, un Munno differente è un po' un piccolo cariglion poetico, un piccolo circo, ed è un gioiellino, due personaggi completamente onirici vivono devastati, ammalati all'interno di una piccola discarica metropolitana, di un futuro prossimo, ahimè, non so quanto prossimo, però insomma diciamo di un futuro prossimo. Sono una donna, una Madonna decadente, un po' ispirata a antiche figure di divinità della Madre Terra, ma anche Iside, eccetera, eccetera. E lui è un piccolo folletto, come se fosse un po' un pulcinella contemporaneo, completamente ormai devastato da un mondo distrutto, un mondo che non risponde più alla loro attesa, un mondo che non dà più voce. E loro vivono nel ricordo del contatto con questo mondo e, vivendo di una ipotetica discarica, aspettano ancora almeno l'arrivo della differenziata. Ecco, Munne o Munno differente. Ma non arriva più nulla. E quindi, man mano, in questa devastazione, i due personaggi cominceranno un processo. Uno, il folletto, con gioco, purezza e divertimento, l'altra con più consapevolezza, con un stare più adulto, un processo di riciclo, di recupero, e all'interno di questa discarica andranno a ritrovare sia materialmente sia emotivamente, interiormente, la vita che è ancora presente in tutto ciò che l'essere umano contemporaneo butta via, getta via. E quindi è un po' un processo in cui piano piano questo piccolo cariglion si risveglia, diventa un piccolo circo e lentamente si trova la via per la trasformazione, la via per utilizzare le macerie sia esterne appunto che interne, per costruire con queste macerie una via per uscire, per andare via di scena da un passato, da un presente decadente e abbandonato, e per trovare di nuovo la vita nelle piccole cose essenziali. Questo è un po' tutto il plot, diciamo, del racconto. Da dove è partito tutto? Sia da considerazioni personali, di vita, di quando uno ha questi momenti di bilanci di vita per cui ti rendi conto quanto sia te stesso, ma quanto anche tutti noi spesso ci buttiamo via un po' e siamo un po' ossessivi nel voler essere altri, nel voler avere altre identità, nel voler essere altro, invece di andare un po' a scavare in noi e a ritrovare l'essenza semplice, pura e realmente virale. E in più, perché era anche il periodo 5 anni fa, quando ho cominciato a scriverlo, in cui per esempio c'era il grande bailam mediatico della spazzatura napoletana, che mi pare che insomma in questo momento si è trasferito a Roma, ma in generale c'è, cioè, la grande protagonista, se vogliamo, contemporanea è la spazzatura. Quindi mi è sembrato che il fatto che ormai la spazzatura è la grande protagonista, chiaramente in negativo, dell'essere umano, e che noi invece di trasformarla in qualcosa che può far ripartire la rinascita proprio di un mondo differente, cioè di un modo diverso di stare in questo pianeta, continuiamo semplicemente a buttare via. E quindi non è un caso che via, buttati via, ridimenticati in questo affratto, ci siano una figura femminile che rappresenta un po' sia tutto il femminile, che per secoli e secoli insomma ha avuto un bel da fare per riuscire a tirarsi fuori dagli anfratti, ma è anche un po' l'idea della Madre Terra, insomma, e un maschile puro, cioè un maschile che, diciamo, che in qualche modo simboleggia un po' l'infanzia tutta. E quindi, ecco, il ragionamento è partito da lì, di accomunare, cioè, che per me la spazzatura è proprio la metafora di come siamo noi, di com'è l'essere contemporaneo, la società contemporanea. Questo, fondamentalmente. Si tratta di un debutto, poi proseguirà il suo percorso? Allora, si tratta di un debutto, anche se ha avuto varie fasi di noi li chiamiamo piccoli scarti, nel senso che vari studi fatti negli anni portati ad alcuni piccoli festival, ma sì, questo è il debutto definitivo e completo, insomma, sono tanti mesi che proviamo. Sì, avrà un percorso quest'estate, siamo in via di definizione, e sicuramente abbiamo alcune date in Puglia, soprattutto in piccoli festival che utilizzano la meravigliosa scenografia naturale. E quindi questa volta noi avremo proprio una discarica a cielo aperto, nel senso che saremo all'aperto in posti meravigliosi, e quindi credo che sarà bello proprio avere anche questa sorta di grande dicotomia, questo contrasto tra noi che mettiamo in scena una spazzatura, in scena abbiamo un bidone del petrolio, una vecchissima porta arrugginita, abbiamo buste di plastica, quindi proprio insieme magari dentro, accanto a scenografie che sono vecchie masserie antiche, perché un po' questo è il binomio veramente contemporaneo, la società sta gettando via anche la bellezza antica. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente sì, allora intanto vi ripeto che noi vi aspettiamo da martedì, questo che è il 4, martedì 4 al 9 febbraio allo spazio 18B, tutte le sere alle 21, il mercoledì e la domenica alle 18, sono pomeridiane, il martedì, giovedì e venerdì, martedì, mercoledì, giovedì, scusatemi, 10 euro, e venerdì, sabato e domenica 15 euro, che è la mia pagina Facebook, che è Marzia Ercolani, Astronoma del Teatro, che è la compagnia che ho fondato, e, o se no la pagina dello spazio 18B, che ringrazio moltissimo nella persona di Jacopo Bezzi, Massimo Roberto Beato, Sofia Cappini, Ferrante, e ovviamente ringrazio Marisa Palmacci, l'ufficio stampa, che è meravigliosa. Munne, un mondo differente. Un saluto e un ringraziamento a Marzia Ercolani, che ne ha curato la drammaturgia e la regia. Marzia, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, posso soltanto aggiungere una cosa, volevo ringraziare l'attore che scena con me, Luigi Apunzo, e le due assistenti della regia, Maria Vittoria Rumolo Iunco e Giorgia Calcari. Grazie Federico, grazie a tutti voi, vi aspettiamo. L'attrice Laura Nardi sul suo spettacolo Il mestiere più antico del mondo. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, venerdì 7 febbraio 2020. Ci sono una serie di realtà che lo hanno prodotto e sostenuto. Esatto, sono tutte realtà poi legate al mondo dell'ostetricia, perché il mestiere più antico del mondo nel nostro spettacolo non è la prostituzione, ma è il mestiere di ostetrica, per cui grazie a Gabriella, che tra l'altro non solo è la scrittrice del testo ma è un'ostetrica, abbiamo avuto il sostegno di Vita di Donna, di Freedom for Birth e del Melograno, che sono quelle realtà che difendono il diritto alla donna di partorire in modo naturale e senza l'invasione della struttura sanitaria. Spettacolo che ha visto la luce e il concepimento. Il concepimento è stato che, va bene, io conosco, adesso andiamo subito sul pettegolezzo, va bene, io ho due figli, quando ho fatto partorire la prima ho conosciuto Gabriella, grazie, che mi ha salvato il parto l'ultima mezz'ora prima della strada, prima di passare tutto questo, okay. E quindi quando ho avuto il secondo figlio l'ho cercata. Voglio lei e non voglio più andare in ospedale. Vabbè, io un po' drastica e ho partorito a casa. Poi lei ha scritto un giorno, carina mi dice: Laura, ho scritto un testo, me l'ha pubblicato pure Feltrinelli, perché il testo è edito da Feltrinelli, l'ho letto, gli ho detto facciamolo subito, è importante. All'inizio la pazza non ci credeva e poi invece ci ha creduto che era una cosa fattibile, e soprattutto che è un testo che riguarda tutti, perché comunque prima o poi, cioè, tanto al mondo siamo venuti tutti così, cioè al mondo ci siamo venuti, in provetta ancora no, quindi ci riguarda profondamente tutti. Senti, quanto c'è del testo nello spettacolo? È integrale? È tutto? Allora, è integrale, modificato, ovviamente quello era un racconto per cui, certo, è stato adattato anche, sì, linguisticamente, tutto il discorso diretto è una cosa che viene da me e da Mandio Pigneiro, che è il regista, con delle aggiunte, cioè in realtà noi siamo partiti, abbiamo fatto una lettura pubblica alla Casa Internazionale delle Donne a cui erano presenti delle ostetriche, sì, e una ginecologa, e loro immediatamente hanno iniziato a dire dico, per esempio, che ti posso dire? Ma no, guarda che dicevano pure spingi che non stai a caricarla. No, io mi ricordo di aver sentito. E quindi man mano è un testo che si sta integrando, anche perché anche quando sei venuto tu a vederlo, tra grande Roma, maggioranza di donne, tra l'altro, di donne e di ostetriche, per cui si ferma, e che non si sono mai sentite rappresentate, capito? Sono proprio figlie di un dio minore, quindi improvvisamente c'è qualcosa che le sta rappresentando. E poi c'è stato anche negli ultimi tempi un grande movimento che ha visto coinvolte 20.000 donne, credo, mm-hmm, non vorrei sbagliare, sempre Melograno, Roman Action Group, Vita di Donna, che si chiama Basta Tacere, cioè che sono donne che attraverso hanno scritto le loro storie di violenza ostetrica su dei cartelli e li hanno fotografati e messi su Facebook, in questa pagina Basta Tacere, e ci sono delle storie che sono pure peggiori di questa, di vera e propria macelleria, mattatoio. Ci parli anche un po' della produzione e del sostegno delle varie strutture? Allora, il sostegno è soltanto un sostegno organizzativo, perché okay, questa volta allora, io faccio una premessa: io ho un'associazione culturale e Evito, che si occupa di teatro, che si occupa di produzione di spettacolo dal vivo e di corsi di teatro per bambini e adulti, e sono sempre stata abbastanza restia, ho sempre cercato a fare le cose gratuitamente, ok? Ho sempre cercato nel mio piccolo di trovare un finanziamento. Questa volta ho detto non ce la faccio, non ci so, cioè ormai per la cultura, per il teatro non ci sono più soldi, non li trovi più dalle una parte, poi ti produce un testo sulla violenza ostetrica, fai uno sforzo, e quindi lo sforzo è stato collettivo, cioè di mettere ognuno il proprio lavoro, sì, purtroppo gratuitamente, e fino ad arrivare alla produzione. Da adesso in poi ovviamente si deve parlare anche di una parte economica, però che lo spettacolo si sostenta attraverso gli incassi, in più. Visto la mia rabbia personale, ma qui parliamo di una rabbia personale nei confronti del teatro e ma non del teatro, ma di chi gestisce il teatro, che ha reso i teatri, soprattutto a Roma, inagibili. E lo spiego magari perché inagibili, perché per un attore, per una compagnia, che sia di qualità o non di qualità, non stiamo parlando di qualità, entrare in un teatro e fare uno spettacolo è sempre più difficile, perché ci sono i grandi teatri che ti comprano lo spettacolo, li devi conoscere proprio quella persona individualmente, occhi negli occhi, essere un po' amici per valutare se, quindi non stiamo dicendo di per prendermi lo spettacolo, ma è per valutare se, e quindi in quel senso è inagibile, ci mettiamo i lucchetti, perché vi fate il teatro non secondo un'idea artistica, ma secondo, non so, i vostri principi, non ve li chiedo neanche. E poi ci sono tanti piccoli teatri che fanno fatica probabilmente a sopravvivere, ma che cosa fanno? Chiedono agli artisti, alle compagnie, di pagare, e questo è impossibile, anche questo, perché poi il prezzo del biglietto diventa troppo alto se io devo, certo, recuperare quelle spese. Allora con questo testo io ho deciso, per la prima volta nella mia vita, lo vado a fare dappertutto, ma non nei teatri. Senti, volevo chiederti, sì, Laura, cosa di questo testo personale e professionale ti ha convinto a renderlo anche teatralmente? Al di là del problema del parto, che mi interessa, ma fino a un certo punto ne ho intravisto un eco della violenza su due livelli, da una parte, indipendentemente veramente dalla violenza nel parto, ma una violenza alla donna e una violenza al più debole, perché quello che succede in sala parto era quello anche che succede ovunque, dove una persona debole e fragile e che non ha il controllo della propria esistenza deve mettersi in mano di una persona forte che ha potere, e questo nell'essere umano scatena una relazione insostenibile. Quindi va al di là del parto, riguarda tutte le strutture, sì, sanitarie, ma riguarda, se proprio la vogliamo prendere alla lontana, le scuole. Cioè come educhiamo i nostri figli come cittadini del futuro? Certo, magari ci sono anche delle insegnanti meravigliose, però ci sono alcune insegnanti che possono utilizzare, su cui mi uccidono. Chi? Sto guardando dietro. La trasmissione. Chi è che mi uccide? Vabbè, basta, mi sono autocensurata. Non riesco più ad andare avanti. Ma dai. Sto scherzando. No, va bene, che c'è un abuso, c'è un abuso rispetto al più debole. E quindi mi interessava più questo, cioè come allargare, e anche come, perché queste è anche un problema di educazione, cioè queste ostetri che sono diventate così, non essendo così, sono diventate così perché c'è una struttura che vuole che siano così e perché la loro educazione è questa, allora ritorno al discorso di prima, che cittadini vogliamo per il futuro, perché parte da lì, dalla parte dell'educazione, stabilire il cittadino del futuro. Ti sono piaciuta. Yeah. Il titolo e il disegno di Locandina giocano sul senso comune. Sì, sì, esattamente. Tra l'altro, sai che l'immagine del l'ho scelta io. L'immagine, cioè non è quella del libro, e l'ho scelta tra varie critiche, c'era chi mi diceva stai doppiando il titolo, perché allora lo spiego, perché siamo in radio, l'immagine è un'immagine di Guttuso, di una delle donne di Guttuso che è riversa sul letto e si vede praticamente il suo sedere scoperto. E questa immagine io ce l'avevo a casa in una sua copia quando ero bambina e mi turbava tantissimo. Quando ho visto questo testo ho detto io la ritiro fuori, perché è un'immagine che agli uomini è tipo te, che cosa vedi di quell'immagine? Una donna che secondo me o viene da una situazione appunto di dolore o di piacere. Ok, perché in genere gli uomini a cui l'ho chiesto loro mi dicono perché è una donna dopo un amplesso. Secondo me non è detto, a me sembra una donna dopo uno stupro. E siccome quello una cosa mi ha colpito quando poi sono diventata amica di Gabriella Pacini, no? Ora mi uccide che lo dico. Però lei una volta mi ha detto "Ma sai le donne che si lei fa i parti in casa, quindi cioè veramente sta dall'altra parte, no?" E mi ha detto "Ma sai, alcune volte quello che succede in sala parto non è tanto differente da uno stupro." Ed è per questo che mi è venuta in mente questa immagine, perché il sesso e lo stupro, la nascita è anche sesso, e in qualche modo è mostruoso quello che accade. Capito? Ma ti ho spiegato tutto. Allora Laura, tu sei stata già il nostro ospite in altre occasioni qui a Radio Teatro, credo sia la terza volta che ti abbiamo con noi. Raccontaci un po' del tuo percorso artistico. Allora, io nasco come attrice di teatro, ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e poi ho avuto la fortuna di lavorare quasi subito e di incontrare grandi maestri, per cui da Patroni Griffi, Necrosius, Luca Nonconi, insomma ho fatto veramente dei belli incontri, alcuni più belli, altri meno belli, però insomma vabbè, ho lavorato nel teatro ufficiale finché, mannaggia a me, non ho fatto i figli. E lì mi hanno detto ciao core. E allora ho detto vabbè, non ho neanche un marito compagno potente, è pure portoghese, che cosa ci facevo? Devo fare in Portogallo oppure inizio a pensare a un teatro mio, cioè non più a lavorare come coscritturata, per cui come mi hanno buttato dalla porta sono rientrata dalla finestra con la mia associazione, piano piano ho iniziato appunto con i corsi, ho iniziato con il teatro per l'infanzia e anche parallelamente a fare tutto quello che mi era possibile fare, cioè nel senso che io ce ne ho tante, farei tantissime cose, però faccio quelle per cui, come ti dicevo prima, riesco a trovare un finanziamento o una realtà produttiva, perché gli attori devono essere pagati. L'attrice Laura Nardi sul suo spettacolo Il mestiere più antico del mondo. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, venerdì 7 febbraio 2020. La regista Eleonora Guzmano sullo spettacolo Un capitano, 200.000 chili sulle spalle. A Roma, Altrove Teatro Studio, dal 7 al 9 febbraio 2020. Eleonora, benvenuta. Grazie, grazie di essere qui, anche da parte mia e dei miei compagni che sono vicino a me. Ok, ce lo descrivi? Certo, allora, diciamo che lo spettacolo nasce da un'esigenza molto personale di Amr, che è uno dei due drammaturghi, che è diciamo l'interprete

La regista Eleonora Gusmano sullo spettacolo Un capitano, 200.000 chili sulle spalle. A Roma, Altrove Teatro Studio, dal 7 al 9 febbraio 2020. Con Giulia Nervi, attrice, cantante, torturatrice di ukulele, che sarà a Ugo, volume 16, a Roma, al Monk, sabato 8 febbraio 2020. Giulia, ben trovata. Ciao, ben trovato. Ciao, come va? Bene, tu? Bene, bene, dicevamo prima, per fortuna sono viva anche oggi. Esatto, esatto, e non è poco. Non è poco, infatti, è un ottimo modo di iniziare la giornata, pensando queste cose che si danno un po' troppo per scontate. Per chi ci ascolta, raccontiamo la formula Ugo. Sì, allora Ugo è un bellissimo collettivo di donne che sono attrici, autrici dei loro pezzi. Loro lo definiscono Ugo perché è un identified gabbling object, cioè un oggetto non identificato farfugliante, diciamo così, no? Ed è effettivamente quello che è, cioè nel senso è un bellissimo collettivo in cui ci sono tante teste diverse che raccontano la comicità dal punto di vista femminile, ma non solo, in tanti modi diversi. Ed è bello perché al di là del gruppo originario, diciamo lo zoccolo duro, ci sono sempre ospiti nuovi, io ho l'onore di essere tra questi, e quindi è anche un bellissimo luogo di scambio e di confronto anche tra colleghe. È un comedy show, un contenitore di monologhi, di stand-up, di satira, di musica, c'è un po' di tutto. Entro i 10 minuti a testa e anche con momenti musicali. Certo, infatti io in questo caso, e così come le altre volte che sono stata ospite di Ugo, rappresento il momento musicale delirante, perché io ho questo vizio per cui scrivo canzoni demenziali, fondamentalmente. E quindi unisco, o comunque cerco di unire comicità e musica. Come sei entrata a far parte del gruppo? Allora, io sono entrata a far parte del gruppo grazie ad una delle ragazze che appartiene allo Zoccolo Duro, che è Annalisa di Anticordone, che è appunto una mia amica e collega con cui ci conosciamo e stimiamo da anni, che a un certo punto mi ha detto: guarda, con delle mie colleghe, delle mie amiche stiamo mettendo su questo progetto. Ma mi ricordo che era una delle primissime serate che loro facevano ancora Radio Rock, e mi disse: ti va di venire magari fare un pezzo? E io in quel momento stavo lavorando al mio primo one woman show, che si chiama Tutto da sola, in cui alterno in continuazione recitato e cantato. Avevo un pezzo nuovo che si chiamava La Samba Triste da provare, ho detto: va bene, vengo, vi faccio La Samba Triste. E così, armata di turbante di frutta, sono andata, ed è stato amore a prima vista. E la tua caratteristica artistica, da quello che hai accennato, musica e demenziale? Sì, nel senso che a me piace usare il palco come un posto dove io riesca a combinare le cose che mi piace fare e che nel tempo ho imparato a fare, e quindi riuscire a poter mettere insieme il canto, la musica, la comicità, per me è una bellissima cosa, e per fortuna ci sono spazi come quello di Ugo in cui posso andare e fare un po' come mi pare. Cosa ti è piaciuto di questa formula? Ma come dicevo prima, è bello perché è un luogo di scambio, nel senso che appunto ogni sera ci sono ospiti diversi, comunque le ragazze appunto che fanno parte del collettivo di Ugo, che sono Cristina Pellegrino, Annalisa di Anticordone, Paola Michelini, Cristiana Vaccaro, Betta Cianchini, Arianna Dell'Arti, ogni volta propongono materiale inedito, quindi è bello perché tu per prima vai portando un pezzo nuovo, però vedi anche i pezzi nuovi delle altre, quindi un po' ci si confronta, ci si ascolta, ci si supporta, è bello, non sempre è così, anzi, molto spesso quasi si gode a sapere delle competizioni tra comici, stand-up comedian, o comunque tra donne, poi capirai, però quasi si gode nel sapere, ah, perché vedi, invece questo è un ambiente tranquillissimo, in cui appunto ognuna può andare e presentare quello che sa fare al meglio, o comunque quella che è la sua idea di comicità. Mi dicevi prima che è la tua quarta volta ad Ugo, sì. E sono sempre tutti pezzi tuoi o hai fatto anche cose per altre autrici? Ho sono sempre pezzi miei. C'era solo in un caso un pezzo che era una mia, diciamo, traduzione, adattamento comico di I'm a Woman di Peggy Lee, per questo pezzo blues degli anni 50 in cui lei, diciamo, racconta tutta una serie di stereotipi al femminile, però abbracciandoli. Io invece li ho presi, li ho trasformati, in realtà li ho capovolti, ecco, tutto qua. Quindi, diciamo, la base del pezzo era quella, però poi ho cambiato completamente le parole, adattando anche in italiano. Ugo, volume 16, a Roma, al Monk, sabato 8 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Nervi. Giulia, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Avviso molto importante: per entrare al Monk non c'è più bisogno della tessera ARCI, che so che era un incubo per molte persone, ma invece potete venire senza preoccuparvi di averla o di averla dimenticata sul comodino. Ecco. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.